soli, tu sai che a me piace tanto cantare. Allora dai, carta e penna, scriva e inventala per me. Che per me fu il mio unico pensiero, e così grazie a te spero di andare avanti con una canzone che parli d'amore, che tocchi il cuore, ti fa sognare. Una canzone che parli d'amore, che tocchi il cuore, che ti fa innamorare. Sempre fatto le tue storie, se tu vuoi le farò un po' mie, saranno canzoni che toccano il cuore.